Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente, visto che oggi è anche la giornata del vertice europeo di Bratislava, non potremo non ricordare la figura di Carlo Azeglio Ciampi, sia come Presidente della Repubblica che come Ministro del Tesoro, un grande europeista. Avete ascoltato dai nostri GR24 le varie dichiarazioni che si stanno susseguendo nel corso della giornata, ne parleremo più avanti. Oggi è venerdì ed è anche, come sempre, l'appuntamento con la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione, o meglio, sugli sprechi di denaro pubblico, per essere più precisi. Però è anche una giornata abbastanza difficile in borsa, non solo per Deutsche Bank, e qui assistiamo al crollo del titolo dopo che dagli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia americano ha proposto di chiudere l'indagine contro Deutsche Bank e relativa ai mutui subprime con il pagamento di 14, chiedendo a Deutsche Bank il pagamento di 14 miliardi di dollari. Ovvio che il titolo poi, come sono iniziate le contrattazioni, abbia iniziato a crollare, meno 7%. Deutsche Bank si è detta fiduciosa di poter sostanzialmente pagare una cifra più bassa rispetto alle ipotesi iniziali, però insomma il dato c'è tutto. No, da noi vanno male le banche anche per altri motivi, e mi riferisco in questo caso, oggi sono riprese le vendite in maniera massiccia sul Monte dei Paschi di Siena, e da questo punto di vista perde il 6,64% in questo momento il titolo. È l'incertezza del settore bancario, il piano per l'aumento dei capitali, i soliti temi. Nella settimana comunque Milano, che adesso perde il 2%, ha ceduto comunque un altro 5%. Certo che Deutsche Bank porta giù anche le banche italiane, ma non sono solo, diciamo, gli elementi di carattere europeo ed esterno. Azimut meno 5,92, Unicredit meno 5,40, Mediobanca meno 5,20, Banca Mediolanum meno 4,90, Unipol meno 4,60, come UbiBanca il 4% lo perde Unipol 6. Chiudiamo col Banco Popolare che perde il 3,80, Generali Assicurazioni meno 3,50, Pop Milano meno 3,50 anch'essa, Popolare Emilia Romagna meno 3,30%, Intesa San Paolo si comporta un po' meglio della media, meno 2,70%. Ancora devo dire che di positivo oggi non c'è praticamente nulla tra i titoli di maggiore capitalizzazione. Chi perde meno si chiama Prismian, meno 0,30%, e STMicroelectronics meno 0,60%, come Tenaris e Poste Italiane, che cedono solo 0,80%. Ancora parleremo di questo, parleremo appunto del vertice di Bratislava, dove primo vertice europeo senza la Gran Bretagna, in cui si cerca di arrivare a una non si chiuderà tra virgolette questo vertice con un testo di conclusioni, ma dare delle soluzioni, una roadmap soprattutto sul controllo delle frontiere, la sicurezza e l'economia. C'è anche l'accordo di libero scambio, il TTIP, non mancano le divisioni, 11 stati, compresa l'Italia ma non la Francia e la Germania, hanno firmato una lettera per chiedere alla Commissione di continuare i negoziati. E poi diciamo, si parla anche di economia, non è uscito qualcosa di sensazionale in queste ore da Bratislava. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi c'è sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, partiamo al netto dell'approfondimento che avremo poi sulla figura e anche sul ruolo di Carlo Azeglio Ciampi. Partiamo da alcune notizie che riguardano, tra l'altro, nell'anniversario, mi scrive un ascoltatore, della capitolazione di Lehman Brothers. Sì, insomma, erano praticamente 8 anni fa, quando tutto iniziò, o meglio iniziò la parte della crisi vera e propria. Sappiamo, abbiamo detto più volte, che quello che sta colpendo l'Italia e altri paesi non è solo la crisi finanziaria del 2008, ma un cambio radicale, una rivoluzione vera e propria nei modelli produttivi, nelle dinamiche anche mondiali, nella catena del valore. Ma al di là di questo, è interessante che a 8 anni di distanza oggi scopriamo che i bonus dei manager britannici hanno toccato un nuovo record, questo nel 2015, dai tempi proprio del 2008, da prima che scoppiasse la crisi finanziaria che tutti chiamiamo o identifichiamo con il crollo di Lehman Brothers. Lo scrive oggi il Guardian, sulla base dei dati diffusi dall'Ufficio Nazionale delle Statistiche britannico, sono stati nell'ultimo anno pari a 44,3 miliardi di sterline, quasi 50 miliardi di euro, i pagamenti extra incassati da manager e affini. È un record, è la più alta manna dopo quella del 2008, e l'aumento rispetto al 2014 è del 4,5%, nettamente superiore a qualunque incremento di stipendio fra i comuni mortali, normali lavoratori britannici. È interessante però, sempre sulla scia delle remunerazioni, quanto oggi scrive Sole 24 Ore con una firma di Gianni Dragoni, e cioè che noi sappiamo che le banche italiane hanno vissuto un 2015 da incubo, soprattutto nei mesi finali, non così da incubo i banchieri italiani, perché come scrive appunto il collega Gianni Dragoni, l'aumento dei compensi è stato pressoché generalizzato, soprattutto grazie a bonus e buone uscite. Allora, passi che in vetta la classifica c'è Roberto Nicastro, ex direttore generale di Unicredit, che adesso guida le quattro good bank, delle quattro banche fallite, Pop Etruria, Cari Chieti, Cari Ferrara e Marche. Dicevo, con un tra liquidazioni e il resto, hanno avuto una liquidazione da 5 milioni e 400 mila euro, bonus da 350 mila euro, in tutto ha incassato quasi 7 milioni di euro Nicastro. Ma al secondo posto si piazza Ghizzoni, che anche lui ha salutato la banca incassando, era l'amministratore legato di Unicredit, 4 milioni e 660 mila euro. Quello che mi fa impazzire è che al terzo posto tra i banchieri più pagati nel 2015 c'è Samuele Sorato, che, per chi non se lo ricordasse, è stato amministratore delegato e direttore generale della Popolare di Vicenza, della Banca Popolare di Vicenza, crollata, travolta, salvata dal Fondo Atlante, non senza avere fregato tutti i clienti della Popolare di Vicenza che avevano comprato le azioni, soprattutto se avevano comprato a 62 euro, valgono 0,1, valevano 0,1. Beh, Sorato, ex amministratore legato e direttore generale della Popolare di Vicenza fino al 12 maggio 2015, ha intascato l'anno scorso, l'anno in cui la banca, diciamo, scompare come realtà autonoma, fallisce de facto e viene salvata, 4 milioni e 600 mila euro. Ancora due notizie che riguardano l'Italia. Una l'hanno già anticipata i nostri GR, ma il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini ha ipotizzato in maniera molto seria che gli sgravi contributivi per i neoassunti, quelli che erano le contribuzioni per i neoassunti, che valeva 8.000 euro all'anno per ogni neoassunto nel 2015, quest'anno portata alla metà, 4.000 euro, beh, che possono ricevere uno stop. È ancora in discussione, è sempre stata una misura temporanea ed è già stata ridotta l'anno scorso. Può essere, può darsi, ha detto Nannicini, che sia venuto il momento di dire lasciamo finire questa misura che finirà nel 2018 e andiamo a ridurre il cuneo contributivo. Questo per quello che riguarda, vedremo poi, perché questo sarà oggetto chiaramente della legge di bilancio, come si chiama adesso, la legge finanziaria o la legge di stabilità. Polemica ha suscitato invece la dichiarazione del presidente dell'INPS Tito Boeri, che è intervenuto alla Summer School a Cuneo. Ha detto: attenzione, sbaglia chi dice che c'è un futuro nell'industria, il futuro nel settore servizi, dove più alto il capitale umano, e nella sharing economy per i lavoratori poco qualificati. Boeri ha poi ricordato come in questo paese manchino seri investimenti in ricerca e sviluppo e grandi centri di attrazione del capitale umano, e ha ricordato come il mercato del lavoro di oggi si sia fatto di carriere discontinue e le regole di protezione sociale non siano adeguate. Tutto giusto, però attenzione, perché quando si dice l'industria bisogna capirsi, perché l'industria italiana un'industria di grandissimo rilievo, la seconda manifattura d'Europa, e soprattutto l'industria di adesso è un'industria che già ingloba in molti casi, quando è profittevole e produttiva, ingloba la componente servizi, cioè non si produce più solo il manufatto, cioè tutta la parte di assistenza, di merchandising, di penetrazione sui mercati. Cioè dire che i servizi e l'industria siano due cose così separate, beh, insomma, a mio avviso non corrisponde al vero, soprattutto nelle imprese dell'industria che vanno verso l'industria 4.0 e quindi la digitalizzazione dell'impresa, l'internet delle cose e tutta l'assistenza pre e post vendita, che è fondamentale, quindi rete commerciale, rete di fornitori, rete di assistenza. Insomma, lì il confine tra industria, come insomma il manufatto vero e proprio, e i servizi è un confine che si scioglie, si perde, per cui attenzione, diciamo, a ragionare con categorie che ricordano più gli anni fino agli anni 80, agli anni 90, che non questo decennio. Invece la notizia certa, e purtroppo è una brutta notizia, riguarda il nostro commercio con l'estero, perché a luglio c'è stata una frenata brusca, meno 7,3% rispetto a luglio dell'anno scorso, e anche sul mese ha fatto meno 0,6. Tra l'altro anche le importazioni sono calate pesantemente, meno 8,3%. C'è comunque una differenza dovuta anche ai giorni lavorativi. Fatto sta che il dato è peggiore dal luglio del 2009 e le esportazioni sono calate in tutti i principali mercati di sbocco: USA meno 12%, OPEC meno 17%, Germania meno 4%, Francia meno 3%, Gran Bretagna meno 12%, Spagna invariata, Cina più 5%, Giappone più 4%. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo subito con la nostra poco invidiabile classifica: il maltempo affligge l'Italia, e noi ci mettiamo anche del nostro. La classifica della settimana. Allora, partiamo subito dai miracoli. I miracoli sono una cosa seria, soprattutto per chi crede ed è cattolico. Però qua parliamo di miracoli molto più terreni, molto più prosaici. Resta sempre questa cosa del mistero che aleggia dietro i miracoli in generale. Come sarà stato possibile? Ma qui non sono le nozze di Cana, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qui andiamo: come è stato possibile che l'80% dei malati dell'ATAC, e devo tornare a parlare dell'ATAC, l'ho sospesa la settimana scorsa perché già avevamo parlato abbastanza delle vicende ATAC e AMA, ma insomma, come è possibile, ma nemmeno Lazzaro, insomma, che dopo le visite mediche imposte dall'azienda l'80% dei malati dell'ATAC sia improvvisamente guarito? Praticamente sono state fatte decine e decine di visite a dipendenti ATAC ritenuti malati. L'azienda le ha visitate tramite medici aziendali e del CISPI. Hanno preso la maggior parte dei 160 dipendenti che avevano dichiarato di avere problemi fisici tali da rendere impossibile il lavoro come conducente o operare nelle officine. Ora, dopo le visite mediche, l'80%, tac, alzati e cammina, è risultato idoneo. Tant'è che un funzionario dell'ufficio personale dell'ATAC ha detto: ma nemmeno a Lourdes succedono, infatti non dovete andare a Lourdes, dovete andare all'ATAC, succedono queste cose. Tutti i dipendenti che per anni avevano evitato i faticosi turni di guida dell'autobus o un treno della metropolitana, grazie al certificato di idoneità, l'80% invece è stato riabilitato. Sparite anche le disabilità temporanee. Già non ci credeva noi piaceva molto l'ex direttore generale Marco Rettighieri, e anche l'ex capo del personale che si è dimessa assieme a Rettighieri, in Francesca Rango, tant'è che avevano già sporto avevano presentato un esposto alla Procura di Roma perché sospettavano una truffa sia ai danni dell'ATAC sia ai danni dell'INPS, perché in tutto questo, oltre a fregare l'azienda, rubi anche soldi e risorse a chi ha delle vere disabilità, e quella cosa mi fa più schifo, le disabilità temporanee o di altro genere. Però insomma apprezziamo il fatto che nonostante tutto i miracoli a Roma si verifichino ancora. Ma non ci sono solo i miracoli a Roma, ci sono anche i miracoli in Puglia, e non sto parlando di Padre Pio, sto parlando dei consiglieri regionali della Regione Puglia. Adesso io vi chiedo, ma se non è un miracolo questo, cioè come fai ad abbassare le tasse e a guadagnare di più? Beh, ci sono riusciti i consiglieri regionali, perché sì, hanno ridotto le tasse loro, quelle sui vitalizi, cioè non quelle per i cittadini pugliesi. Allora, che cosa è successo? Dal mese prossimo i 206 beneficiari di quello che è il simbolo della casta in questo paese, il vitalizio, riceveranno un vitalizio, un assegno ancora più pesante. La delibera è la numero 61, approvata lo scorso 13 settembre dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale pugliese. Pensate un po', perché in questo paese è vero che è molto diviso, Guelfi, Ghibellini, però su alcune cose si unisce, quando gioca la nazionale, quando ci sono tragedie come il terremoto, e nel caso della politica quando c'è da votare sui vitalizi, perché hanno votato all'unanimità il parlamentino, diciamo il Consiglio regionale pugliese, presieduto a Mario Loizzo del PD, e quindi è stato disposto che per l'anno 2016 potrà essere soggetta all'IRPEF, non sto scherzando, solo l'84% della somma percepita dai consiglieri in pensione e dalle vedove dei beneficiari defunti. In pratica una quota di oltre il 15% del vitalizio diventa no tax zone, ok? Non si può tassare. Allora, quanto vale questa misura? Dipende dal vitalizio. L'importo massimo percepito dai consiglieri con oltre tre legislature è 10.383 euro al mese. Non è uno scherzo, eh? Quindi 1.500 euro non saranno più soggetti a tassazione. Se ipotizziamo una mancata applicazione di un'aliquota massima al 43%, beh, in media l'aumento è stimabile tra i 700 e gli 800 euro al mese. Anche questo, voglio dire, per i giovani con i contratti, diciamo, con i voucher, i contratti a tempo determinato, è lo stipendio di un mese. Per i consiglieri regionali, ex consiglieri regionali, è semplicemente l'aumento del loro vitalizio. E tra l'altro questa decisione potrebbe dare la stura a una serie di istanze da parte dei 206 beneficiari per ottenere dal fisco la restituzione delle cifre versate negli anni scorsi, ingiustamente secondo i consiglieri regionali pugliesi, negli ultimi tre anni, perché la delibera si basa su un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate che ha stabilito che dal 2012 una quota del vitalizio dei consiglieri regionali sia stato tassato due volte. Il vulnus è sorto con l'approvazione della riduzione dei costi della politica che ha disposto l'abolizione del vitalizio dal 1 gennaio 2013. La rivoluzione non è e non poteva essere retroattiva, quindi chi aveva maturato il beneficio entro quella data ha continuato a percepire l'assegno o lo ha ottenuto a fine mandato, come l'ex governatore Nichi Vendola, che prende 5.680 euro al mese. E l'effetto della riforma però si era battuto anche sulla quota di no tax area. La faccio molto breve. Se vi saranno i ricorsi per essere stati tassati troppo, è cosa che è già successa nel Lazio, dove i consiglieri il 19 marzo scorso hanno costretto l'Agenzia delle Entrate a ristabilire la corretta tassazione, probabilmente vi faranno ricorso anche i consiglieri pugliesi. La conferma, diciamo, il fatto che ogni regione vada per i casi suoi lo conferma anche la decisione presa invece dalla regione Friuli Venezia Giulia, che nel 2015 ha votato per tassare l'intero assegno vitalizio. Allora, voi direte, beh, ne risponderanno le casse pugliesi? No, no, perché l'aumento del vitalizio si ripercuoterà esclusivamente sulle casse dell'erario, ma la Puglia ogni anno spende sempre di più per garantire la sussistenza degli ex consiglieri. Dunque, per sostenere la misura dei vitalizi, nel 2016 a bilancio c'è una cifra record di 14 milioni di euro. Voi direte, cosa si fanno con 14 milioni di euro? Bah, si fanno tante cose. Vogliamo parlare delle ferrovie pugliesi? di quello che è successo, si fanno tante cose con 14 milioni di euro, e comunque sono 14 milioni di euro all'anno che dai a uno perché è stato per una legislatura, per due legislature, per tre legislature consigliere regionale. Io continuo a non capire. Ma adesso andiamo al terzo posto e dobbiamo tornare a Roma. Vado veloce oggi perché la puntata è molto densa. Allora, ci sarebbero anche le assunzioni benedette dalla politica. Parenti di parlamentari, di ex assessori di centrosinistra del Campidoglio, questo tra i 340 dipendenti di PharmaCap. Cos'è PharmaCap? È l'azienda municipalizzata romana che gestisce 45 farmacie comunali e 18 asili. È finita nel centro dell'inchiesta della procura sugli appalti sospetti, sugli sprechi, su vecchi bilanci poco trasparenti e razzie di medicinali, pure quella. Allora, un'indagine che è partita dall'appalto sulla gestione diretta dell'asilo aziendale dell'Infernetto. È già stato arrestato il commissario straordinario di PharmaCap Francesco Alvaro per questa inchiesta, poi gli hanno trasformato l'arresto in obbligo di firma, e che adesso dovrebbe punta a scoperchiare altri illeciti in 20 anni di gestione della società partecipata dal Comune di Roma. Allora, ci sono anche i mali, oltre alle inchieste, i mali non solo quelli che stanno emergendo dall'inchiesta del sostituto procuratore Nadia Plastina, ma anche i mali segnalati dai sindacati che da anni denunciano lo sperpero di denaro pubblico a causa di rapporti sospetti con tassi altissimi con alcuni istituti di credito, e uno di questi è il Monte dei Paschi di Siena. Affitti d'oro oltre 11.000 euro pagati a costruttori per farmacie in periferia e consulenze esterne. Molto, ma di che consulenze ha bisogno PharmaCap? Vabbè. Molto ben retribuite, dai 50 ai 200.000 euro annui, oltre ai 150.000 euro annui corrisposti all'attuale direttore generale. Io vorrei capire che cosa, quali siano queste consulenze da pagare così tanto, 200.000 euro, 50.000 euro per la municipalizzata che gestisce 45 farmacie comunali e 18 asili. Ma di che consulenze hai bisogno ancora? Vabbè. Ora, tra l'altro, ci sono anche le assunzioni sospette. La stessa direttrice generale, Simona Laing, ha fornito la sua versione al PM. Siamo un'azienda pubblica, non possiamo procedere ad assunzione a tempo indeterminato senza bando pubblico, cosa che invece è avvenuta. Bene, perché? Ed è perché su questo terreno, per la direttrice, si gioca la partita dei favoritismi tra sindacato e vertici della partecipata. Quindi tra sindacato e vertici, io non so. Ma uno si dimette dopo una fase del genere, no? Dice, guarda, c'è un clima clientelare di favoritismi tra il sindacato e i vertici di PharmaCap. E poi c'è la vicenda dei versamenti degli incassi delle farmacie. Dunque, questa è una cosa un po' strana. I versamenti delle farmacie che gestisce PharmaCap vengono fatti con, dice la direttrice, inspiegabile e ingiustificato ritardo sul conto corrente. Quindi le date di valuta e dei versamenti, nonché l'effettivo versamento, risultano posticipati di alcuni giorni. Questo comporta che la disponibilità finanziaria dell'azienda sia inferiore rispetto a quella reale, di circa 500.000 di euro, il che determina un danno per PharmaCap, la quale, non conoscendo la disponibilità contabile, si vede costretta a ritardare i pagamenti con applicazione di interessi di mora. Quindi ne ha un danno lei. Cosa faresti tu, oltre che denunciarlo? Andresti al Monte dei Paschi di Siena a dire: oh, possiamo rinegoziare questo accordo sui versamenti quando li mettete, diciamo, tra la data di valuta del versamento e l'effettivo versamento? Boh, non si capisce perché non l'abbia fatta. La cosa interessante è la risposta che ha dato uno dei responsabili della banca. Ha detto, sentito dai NAS, ha detto: l'importo complessivo non può essere immediatamente accreditato alla PharmaCap, perché altrimenti la stessa società non avrebbe alcun dettaglio delle farmacie che hanno eseguito la consegna dei soldi. Beh, non è che non ci puoi fare uno scorporo? Fai come ti arrivano li versi e scrivi la causale. Farmacia X, farmacia Baritone. Difficile, eh? Lo facciamo tutti noi quando riceviamo dei versamenti, lo fa qualunque amministrazione, qualunque segretaria amministrativa che deve valutare le cose, ma anche chi gestisce i pagamenti di un condominio fa una cosa del genere. Boh. Eppure a Monte dei Paschi non ce la fanno, e comunque non si capisce perché tutti i versamenti vengono ritardati con un danno erariale ulteriore. Faccio notare che stiamo parlando di 45 farmacie comunali e 18 asili, cioè tutte cose che non servono notoriamente ai cittadini romani. Vabbè, andiamo sul meteo e la pubblicità, perché poi ho il secondo e soprattutto il primo posto. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è INAZ, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Oh, di nuovo con la classifica per andare al secondo posto e poi il primo sarà una discreta sorpresa. Allora, secondo posto, perché da questo punto di vista, cioè, noi cerchiamo di parlare di tutte le regioni, di tutto il paese. Quello che è stato verificato in Lombardia, lo dico come premessa, probabilmente quello che capita anche in altre regioni, ed è una cattivissima abitudine. Mi riferisco agli ospedali convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale. Qual è la cosa incredibile? È la differenza tra quanto aspetti per cercare, e non parliamo poi della prenotazione della visita, se sei convenzionato col servizio pubblico o se vai nel privato. Allora, praticamente tu puoi iniziare a riservare un'ecografia al seno a pagamento a San Raffaele, bastano 3 minuti di orologio, con lo stesso ticket, per lo stesso esame ma con il ticket aspetti al telefono 18 minuti. All'Humanitas per un'ecografia al seno passano esattamente 42 minuti per riuscire a parlare, ma se la visita è a pagamento l'attesa si riduce a poco più di un minuto. Addirittura praticamente ci sono delle strutture che usano il doppio canale per raccogliere le richieste, ognuno al suo call center, con un sistema che divide in partenza tra pazienti pubblici e pazienti privati. Però vuol dire pubblici e privati, non vuol dire pazienti sfigati e pazienti privilegiati. Se dai un servizio, sei un ospedale e sei convenzionato, è una clinica privata, fai quel cavolo che vuoi, anche perché sei privata e sei sempre a pagamento. Allora, allo IEO sembrano le cose andare un po' meglio, almeno i minuti, diciamo, sono 11 se hai il ticket, 2 minuti soli invece per chi paga, diciamo, privatamente. Tra l'altro si può sentirsi dire che il primo posto libero è per 2 settimane, è fra 2 settimane, oppure con 212 euro anche la settimana prossima. Ma il canale pubblico per alcuni esami è impossibile, o meglio nel canale pubblico è impossibile trovare una visita non solo entro la fine di quest'anno ma anche nel 2017. Allora praticamente cosa succede? Quando apri il portafoglio la visita diventa una visita lampo, ti rispondono subito al telefono, becchi subito l'appuntamento. Ripeto, non è un tema solo della sanità lombarda, anzi la sanità lombarda lo sta facendo emergere, e devo dire che la giunta Maroni non ha trovato però una soluzione, anche se più volte ha detto di starci, che ci stava lavorando. La Lega 2 settimane fa in consiglio regionale ha presentato una mozione per denunciare il problema sia nel pubblico che nel privato. Prevede per gli ospedali convenzionati l'obbligo di aderire al call center regionale, sarebbe il minimo, in modo da far gestire direttamente alla regione tutti gli appuntamenti e accorciare le liste ed evitare lunghe attese al telefono. I privati non ci stanno, dovrebbero pagare alla regione una tassa per ogni esame fissato dal call center e dovrebbero rendere pubbliche le loro agende. Ma si va avanti anche con differenze in altri ospedali. Al Policlinico San Donato 13 minuti di pazienza al telefono se vuoi fare una visita passando dal sistema regionale, 2 minuti se vuoi prenotare un controllo pagamento. Chi batte tutti però è l'auxologico a Milano, 46 minuti con linea che cade in continuazione 6 volte per se sei con il ticket, 3 minuti, linea che incredibilmente non cade mai, se invece vuoi pagare. E al terzo minuto ti rispondono pure: signora, se vuole può venire anche domani, non so, vogliamo parlarne ogni tanto, visto che sono convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale? E andiamo al primo posto. Al primo posto oggi abbiamo un vincitore nuovo come categoria, ce ne siamo occupati in vario modo, ma mai mettendolo al primo posto. Invece, siccome parliamo di soldi, e adesso vediamo chi è il vincitore di questa settimana. And the winner is... La UIL, o meglio, attenzione, alcuni dirigenti della UIL. Che cosa è successo? Io quando l'ho letta non ci credevo nemmeno. Il problema è che adesso stanno indagando e quindi la notizia è apparsa su molti giornali. Allora, sta indagando la procura di Roma, ha messo sotto inchiesta e rinviato a processo i vertici della UIL. E quindi, oltre a Carmelo Barbagallo e l'ex segretario Luigi Angeletti, sono comparsi di fronte al giudice dirigenti Goffredo Patriarca, Giuseppe Caronia, Romano Bellissima, Salvatore Bosco, Luigi Simeone e Ubaldo Conti. Che cosa hanno dovuto spiegare? Hanno dovuto spiegare come mai i soldi dei lavoratori della UIL, aderenti alla UIL, siano finiti non per, diciamo, le trattative sul settore pubblico, del trasporto, i pensionati, ma per le crociere dei dirigenti, le crociere. Allora, sentite un po' questa. La causale del bonifico con cui dai conti correnti di UIL Trasporti, UIL Pensionati e UIL Pubblica Amministrazione venivano versati 16.456 euro a favore di Angeletti e Barbagallo, si chiamava, la causale recitava, contributo per progetto condiviso. Leggermente vago il progetto condiviso, ma qual era il progetto condiviso? Andare in crociera. Allora, praticamente con queste, secondo l'inchiesta, con questi 16.000 euro Barbagallo, Angeletti, Bosco e Bellissima e i rispettivi accompagnatori o accompagnatrici hanno pagato una crociera nella terra dei vichinghi. Hai capito? Odino. Era il marzo del 2010 e il punto è ancora più grave, che questa crociera gli è proprio piaciuta, perché stando a quanto recita la procura di Roma, ce n'è un'altra l'anno successivo, maggio 2011, altro bonifico da 16.000 euro per permettere al segretario, all'ex, agli assistenti di andare sulla Costa Favolosa, che, come dice il nome, non è esattamente il traghetto per la Sardegna il notturno, è la Costa Favolosa, una delle più lussuose della Costa Crociere. E poi l'anno dopo Costa Deliziosa, altri sindacalisti del UIL per un viaggio nei mari dell'Europa del Nord, altri 16.000 euro. Allora, le accuse sono di spese indebite, comprendono anche 2.900 euro di cui si sarebbe appropriato Goffredo Patriarca, allora tesoriere della UIL per la sezione trasporti, e che avrebbe donato al collega Ubaldo Conti per permettergli di essere spesato di tutto punto nei 15 giorni nel villaggio vacanza California Camping a Marina di Montalto, dove il Conti porta con sé anche la madre e suo nipote. Vabbè, ma non poteva andare anche lui in crociera a sto punto, visto che già c'erano tutti in crociera? Ah, vada in crociera anche lui. Ma c'è qualcosa di più. Goffredo Patriarca usa la carta di credito intestata alla UIL e collegata alla sezione trasporti per una cosa che con i trasporti non capisco cosa c'entri, cioè preleva soldi e fa shopping in gioielleria 4 volte. Poi mica compra così un cadeau per l'associato, no. La prima volta spende 2.800 euro, la seconda 1.700, la terza 1.935, poi la quarta a corto di idee spende 630 euro tra gennaio e settembre 2011. E quindi, da quello che si capisce, anche brillanti Swarovski. Ho capito, ma allora, quelli vanno in crociera, quello va al camping, quello va in gioielleria, ma qualcuno che difenda trasporti, pensionati e pubblica amministrazione è rimasto? Dopodiché, visto che la crociera era così bella, ma perché rientrare? Si poteva proseguire oltre il Mare del Nord, la rotta nord-ovest, il passaggio nord-ovest, non l'ho mai scoperto, magari ce la facevano loro. Bravi, bravi, bravi anche i vertici, ex vertici della UIL, che si beccano il nostro applauso di oggi. Tutti in crociera, ma perché poi? Love Boat, quegli Swarovski e accompagnatori, Love Boat, va bene, va bene. Noi come sempre cerchiamo di tirarci su con il caso virtuoso, oggi rappresentato da Andrea Puzzo, fondatore e direttore finanziario di Una Fraud. Buonasera Puzzo. Buonasera Sebastiano. Allora, vabbè, non ci conosciamo. Buonasera Andrea. A sto punto però c'ho il traffico e poi mi racconto cosa fa Una Fraud. Focus Economia. Allora, vedo che gli ascoltatori si stanno scatenando su Odino per le crociere nel nord Europa dei dirigenti, ex dirigenti della Will. Guardate che il martello, se ricordo bene, era di Thor, però il martello viene evocato, non dico per far cosa, diciamo, ma il martello, vado a memoria, era di Thor, non di Odino. Comunque, chiedete a Barbagallo e Angeletti che ci sono stati, non ho mai fatto una crociera nel mare del nord. Invece, ci racconti lei, Puzzo, che cosa fate, dove lo fate, quanti siete... Dove andate? No, sto scherzando. E soprattutto quanto fatturate, chi vi ha dato i soldi? Prego. Allora, sì, buonasera. Allora, Fraud è una società di cyber security. Noi cyber security. Sì, operiamo esattamente nella cosiddetta transaction security. E che cosa facciamo? Andiamo a proteggere i nostri clienti, che tipicamente possono essere aziende che operano online come e-commerce, marketplace, banche, assicurazioni o anche società di telecomunicazioni, e le proteggiamo da eventuali e potenziali minacce esterne, soprattutto relative alle frodi online. Ok, e dov'è che avete sede? Abbiamo la sede qui a Roma. Ma voi siete dov'è che avete studiato, dov'è che siete formati, incontrati, perché siete tre soci, giusto? Sì, siamo tre soci, siamo tutti di Irpino, provincia di Avellino. E Ariano ognuno, Irpino, ok. Sì, Ariano Irpino, provincia di Avellino. Ognuno di noi tre ha diverse competenze. Io più nel business, gli altri miei due soci, Armando Monte e Vincenzo Paduano, hanno competenze. Uno è ex dottorato in bioinformatica, quindi si occupa della parte di intelligenza artificiale, e Armando invece più della parte di architettura IT. Quello che noi siamo molto peculiari, perché fondamentalmente la nostra differenza rispetto ad altri competitori è che noi prevediamo la frode, cerchiamo di prevederla, dirlo al cliente e non farla realizzare, insomma. Alcune Quindi volte si chiamerebbe in inglese fraud prevention, cioè prevenire. Esatto, sì, ecco, mi dica una cosa, quanto fatturate e se le banche vi hanno aiutato? Le banche no, non ci hanno aiutato. Chi ci ha aiutato è stata Telecom Italia attraverso il programma di accelerazione Working Capital, e in seguito con un grant di 25.000 euro, e poi in seguito attraverso il loro fondo di venture capital che si chiama Team Venture hanno appunto investito 100.000 euro all'interno della società nel giugno 2015. Al momento siamo una decina di persone tra interni e qualche freelance, e siamo su un fatturato più o meno sulle 200.000 euro, insomma. Che ancora non basta per il numero di collaboratori che avete, no? Assolutamente, certo. Non basta, perché ovviamente la nostri competitor, parliamo di start-up che negli Stati Uniti hanno fatto un raising di capitale minimo di 50-60 milioni di euro. Certo. Sì. Senta, ma quanto pensate di fatturare quest'anno? Cioè, la prospettiva qual è? La prospettiva in quest'anno, sì, come dicevo, ci aggireremo, spero, ed chiuderemo sulle 200-300 mila euro. Okay. Ecco. E il 2017? 2017 speriamo di fare un balzo che ci porti almeno sotto il milione, ecco. Allora, in bocca al lupo a lei e quindi anche a Vincenzo Paduano e a Fernando e Armando Monaco, ai vostri dipendenti. Speriamo che riuscite a crescere sia nella sede a Roma sia in quella a Milano, e soprattutto che altri capitali freschi, crowdfunding, private equity, non mi interessano gli inglesismi, e da dove arriva, basta che il gatto prenda il topo, come diceva Mao, e quindi che poi arrivino i soldi per se le iniziative sono ritenute sostenibili. Grazie di nuovo a Puzzo. Sì ragazzi, adesso non vorrei fare la puntata su Odino e Thor. Qualcuno mi scrive che Odino brandisce Grugnir, la lancia magica. Ho capito, so già cosa volete fare con la lancia di Odino e il martello di Thor ai dirigenti da Will in crociera nei mari del nord. Però adesso c'è il GR24. Dal lunedì 26 settembre, dalle 9 alle 10 e mezza, torna Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì alle 9, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it Focus Economia. Non lasciamoci ingannare dal mancato successo di una conferenza. È già accaduto in passato. Abbiamo superato molti ostacoli e anche questa volta li supereremo. Per superarli occorrono slancio ideale e volontà politica. Unione Europea significa pace in Europa. Questo gli italiani lo sanno, lo sentono. Insieme con le istituzioni e ancor più in fretta cresce il sentimento di identificazione con l'Europa nell'animo dei nostri giovani, che viaggiano e sono ormai moltitudini da un paese all'altro, che studiano qui o in altri paesi europei, continuando a sentirsi ovunque a casa loro. Diventando più europei non si sentono sicuramente meno italiani. Un'identità più complessa e anche un'identità più ricca e più forte. Sembra passato un secolo, in realtà queste parole Carlo Azeglio Ciampi, scomparso oggi a 95 anni, le aveva pronunciate il 31 dicembre del 2003. Chiaramente siamo di nuovo in diretta, siete di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, seconda parte di Focus Economia. Dico sembra passato un secolo, ma sappiamo tutti che Ciampi era stato uno dei grandi artefici dell'ingresso dell'Italia nell'euro, alcuni lo criticano per questo, vedo anche sui siti, e il raggiungimento soprattutto dei parametri previsti dal Trattato di Maastricht, permettendo all'Italia di entrare nell'Europa, nell'euro, scusatemi, fin dalla sua creazione nel primo gruppo. E ricordiamo la manovra correttiva, che alla mia età un po' se la ricorda, della politica di bilancio, quella del settembre del 1996, che abbatté di 4 punti percentuali il rapporto di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni rispetto al PIL, debito sul PIL, 4 punti percentuali in meno. In quegli anni si scese dal 120% di debito sul PIL al 113%, inaugurando tra l'altro un circolo virtuoso fatto di bilanci chiusi quasi sempre in pareggio. Era ministro del Tesoro del Bilancio del governo Prodi, è in collegamento con noi, lo ringrazio, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Buonasera professore. Buonasera e grazie a lei per il... No, immagino anche la sua commozione. Allora, vengo subito però all'attualità, perché oggi abbiamo un vertice di Bratislava in cui si cerca di trovare una specie di punto comune d'unione, tenendo assieme quella che è la storia di Carlo Azeglio Ciampi con l'attualità. Anche lei ha avuto la sensazione che queste parole pronunciate solo nel 2003, non parliamo di 40 anni fa, in questo momento sembrino quasi fuori dal tempo, cioè che quel progetto lì si sia fermato in questo momento, che Ciampi non ripronuncerebbe più quelle parole? No, le pronuncerebbe, perché, se le ho ben intese, ha detto abbiamo fatto tanti vertici inutili. E credo che quello che si stia concludendo a Bratislava, se non ci sono sorprese, sia uno dei tanti vertici inutili. Cioè siamo ancora in una paralisi come cominciò a esserci nel 2003. Allora era solo una specie di avvertimento, no? Perché eravamo ancora nella fase della speranza, della forza espansiva dell'Europa, e invece oggi di vertici inutili ne abbiamo avuti tanti, ecco. Quindi quelle parole potrebbero anzi essere attuali. Senta, professor Prodi, gli italiani si ricordano ancora gli sforzi che fece il paese per entrare nell'euro. Alcuni se lo ricordano in maniera negativa, vedo anche i messaggi, ci avete fatto Prodi, Ciampi, ci hanno fatto entrare nell'euro, il cambio euro lira euro. E in realtà quello fu uno sforzo complessivo del paese, perché mi lo ricordo bene, l'idea di restare fuori era, voleva dire essere ricacciati nella parte degli ultimi. E c'è anche chi sostiene oggi, visto sui siti, che lei era in realtà favorevole a ritardare l'ingresso dell'Italia nell'euro. Vorrei capire se è vero, perché l'ho vista. Assoluta che ho già menzogna smentito. Assoluta, dice. È una menzogna assoluta che ho già smentito. Mm-hmm. Fu io a dire addirittura dobbiamo fare la tassa sull'Europa, che non si, c'era chi non voleva chiamarla così perché era troppo esplicita, troppo brutale, ma politicamente io capivo che se l'Italia non entrava nel primo gruppo non sarebbe mai entrata e soprattutto saremmo rimasti ai margini dell'Europa. Per me è una questione di vita e di morte. E l'equivoco che qualcuno porta avanti fu perché nell'incontro italo-spagnolo Aznar fece l'intervista alla Financial Times dicendo che era solo per merito della Spagna che l'Italia aveva deciso di entrare, ma discorsi da Hidalgo. Ma c'è stata, mi ricordo, il primo giorno del governo l'euro era il primo obiettivo. Ecco, senta, professor Prodi, che cosa... Allora, vi fu uno sforzo del paese, perché per la tassa la pagarono gli italiani. Devo dire... È stata restituita al 70%. Sì, sì, questo della famosa eurotassa. Abbiamo detto che la restituivamo e l'abbiamo restituita. Però, voglio dire, è innegabile, non so, magari non è d'accordo, che se si proponesse adesso la stessa operazione, per un motivo come finalità europeo, probabilmente non avremmo solo mugugni e insomma... No, non la proporrei neanche, perché oggi non si potrebbe fare, perché non abbiamo più i leader. Oh, ma allora, scusate, ma allora c'era Kohl, c'eravamo noi, c'eravamo tutti coloro che pensavano che l'Europa sarebbe stata indispensabile per il nostro futuro. E io lo penso ancora, ma la generalità dei leader attuali non la pensano così. Inseguono il voto marginale, il voto populista, e quindi non mi sentirei oggi di fare quella proposta, ma perché siamo nella follia oggi. Cioè lei oggi un'eurotassa non la proporrebbe più, anche se fosse un obiettivo di scopo, come si dice in genere? Perché non sarebbe accettata, ma è il guaio dell'Europa di oggi, non capire che senza essere uniti noi scompariamo. Guardi, ma in questi giorni in cui si vede la dimensione che hanno assunto le grandi reti, no? Google, Apple, Alibaba, eccetera, e sono tutti cinesi o americani. Cioè, noi siamo fuori dal mondo, siamo fuori dal mondo, se non ci mettiamo a correre insieme. E la mia paura è che i tedeschi non l'abbiano capita e quindi pensino di poter far da soli, ma anche loro sono troppo piccoli per il mondo di oggi. Senta, professor Prodi, un'ultima domanda. Se lei avesse adesso, oggi, Carlo Azeglio Ciampi come ministro alle finanze, tesoro e bilancio, che manovra farebbe secondo lei Ciampi? Visto che fra poco dobbiamo iniziare a parlare della manovra, fra qualche settimana. Che manovra chiederebbe all'Europa, o meglio, cercherebbe di fare passare in Europa, e che manovra farebbe, conoscendo bene Ciampi? Ma Ciampi, per il tutto, non chiederebbe eccezioni eccessive, perché capisce che il problema della credibilità in un club è importantissimo, ma farebbe un fortissimo serie di investimenti keynesiani, chiamiamoli così, insomma, no? Per gli investimenti e per la crescita. Ma vede, lei prima ha citato che il mio governo ha diminuito il debito pubblico di 7 punti, ma lo abbiamo potuto fare perché crescevamo. Se uno non cresce non riuscirà mai a diminuire il debito pubblico, cioè noi facciamo giustamente un appello a una maggiore elasticità, ma se non cresciamo non c'è elasticità che tenga. Il problema è la crescita, solo crescendo si può diminuire il debito pubblico, basta fare i conti. Senta, e Ciampi farebbe i conti. Su questo era obiettivamente brevissimo. Un'ultima domanda. Chi decise, perché qui le leggende si sprecano, il rapporto di cambio da molti giudicato sfavorevole per l'Italia? Lei o Ciampi? Il punto finale l'ho deciso io, e fu con Kohl, e noi volevamo 2000, no? Ed era un sogno, perché la Banca d'Italia si accontentava dei 1930, che sarebbe stato disastroso, perché l'interesse nostro era di svalutare il più possibile. Avemmo 1990, i giornali di allora, se lei li va a vedere, erano increduli, perché era un trionfo, e Kohl, con cui definii l'ultimo rapporto, mi disse con molta franchezza: 2000 non posso perché faccio brutta figura, andiamoci vicino, 1990. Sembra quasi un discorso al supermercato, cioè, presente quando i prezzi sono... Sì. Beh, e perché è diverso? No, mi interessava capire, è così che nasce il rapporto... L'accordo politico finale... l'accordo politico finale, lui deve dire: io lo devo far approvare dal mio Parlamento. Lui sapeva quello che era il mio obiettivo e ci si è avvicinati il più possibile, però potendo far approvare dal suo Parlamento il 1990. E beh, dico, non è supermercato, questa è serietà e nello stesso tempo è realismo politico. Visto che la sto per salutare, professor Prodi, il ricordo che lei ha più forte di Carlo Azeglio Ciampi, è stato Presidente della Repubblica, suo ministro, ma insomma, se lei dovesse dare un titolo quasi giornalistico alla caratteristica, alla qualità principale di Ciampi, ministro, di Ciampi, economista, e governatore della Banca d'Italia, ci mancherebbe. Ciampi non era mica un uomo da fuochi d'artificio, eh? Quindi non è che possa dare questi episodi. Era il complesso fantastico che aveva. Partiva da una conoscenza dei problemi enormi, poi si confrontava con tutti, poi cominciava a discutere su come avrebbero reagito le forze sociali, poi veniva alla Presidenza del Consiglio e si confrontavano tutti i dati e tutte le possibilità. Poi al Consiglio dei Ministri la spiegazione diventava, cioè il discorso diventava più una spiegazione che non un punto di discussione, no? Poi si discuteva sui singoli aspetti, eccetera, ma l'impianto era già definito ed era una mistura di base tecnica, un obiettivo politico di lungo periodo, cioè pensava ai figli e ai nipoti, e anche un forte contenuto etico, perché il discorso sulle conseguenze delle decisioni sulle diverse classi sociali lo facevamo sempre. Grazie anche per la disponibilità. Grazie. All'ex Presidente del Consiglio, appunto, di cui Carlo Azeglio Ciampi è stato ministro, Romano Prodi. Vado sul traffico, chiedo scusa per il ritardo, e poi l'ultima cosa che manca oggi, il commento di borsa con un approfondimento proprio sulla vicenda Deutsche Bank. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti, oggi la scaletta è un po' modificata, vuoi perché c'era la classifica, vuoi perché appunto ci ha raggiunto l'ex Presidente del Consiglio e appunto che fu Presidente del Consiglio ai tempi di Carlo Azeglio Ciampi, Ministro del Tesoro, e mi riferisco appunto a Romano Prodi. Però andiamo sulla borsa che oggi vede andare malissimo tutte le banche in Italia, ma non solo, c'è la vicenda Deutsche Bank. La Corte di Giustizia americana vuole chiedere 14 miliardi come sanzione a Deutsche Bank per chiudere il procedimento sui mutui subprime. Il titolo ha perso moltissimo già dall'apertura, subito al 7%, il contenzioso americano pesa appunto su quello, e anche se Deutsche Bank confida di pagare una cifra più bassa di questi 14 miliardi. Che le conseguenze sono: il Monte dei Paschi, non solo per questo, adesso ne parliamo, perde il 9,34%, ma vanno male tutte le banche oggi in Italia. Azimut meno 6,35%, che fa risparmio gestito, ma Mediobanca meno 5,80% come Unicredit, Banca Mediolanum meno 5,5%, Banca Popolare meno 4,5%, Pop Milano meno 4,5 come Ubi Banca, Unipol Sai meno 4,20 come Unipol, e ancora Popolare Emilia Romagna meno 3,40%, Intesa San Paolo meno 3,20%. E vorrei partire da qui con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, per commentare la brutta chiusura di settimana del mondo bancario. Andrea Fontana. Buonasera. Per il Monte dei Paschi sicuramente un fattore di incidenza è quello delle banche, ha perso il 4% il settore bancario italiano, sotto il peso, tu lo ricordavi, di Deutsche Bank. È stata a lungo la peggiore, anche perché i timori sono sull'esecuzione dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi, su come verrà fatto. Si parla anche di un aumento di capitale in esclusione dei diritti opzione, quindi gli azionisti non avranno i diritti per sottoscrivere, ma ci saranno aumenti di capitale riservati a alcune tipi di nuovi sottoscrittori. Questo porterebbe una forte diluizione, scusate, per gli azionisti attuali, quindi è un'incertezza perché i progetti sono ancora in corso. Ha perso circa il 6% per gran parte della seduta, poi è precipitata oltre il 9%. Sì, però diciamolo tutto, Andrea, qui c'è Deutsche Bank da un lato, ma ci sono tutti, come tu ricordavi, gli interrogativi su un aumento di capitale, che sia di 5 miliardi, che sia di 2,5, poi... Ma insomma, non è che adesso con i nuovi vertici il tema sia scomparso, anzi... Assolutamente, e le difficoltà che sembrano emergere dalle indiscrezioni sul trovare nuovi investitori che garantiscono questo aumento lasciano più di un'incertezza per quanto riguarda l'esecuzione di questa operazione chiave per il settore bancario italiano. Allora, oggi le banche in borsa la fanno da padrone, come stavamo ricordando. Ci sono però altri casi. In positivo, devo dire, vista la seduta, meno 2,43% complessivamente il Mibtel. Parigi ha perso un punto percentuale, Francoforte un punto e mezzo, Londra meno 0,30%. Dicevo, in positivo, di positivo c'è pochissimo tra i titoli di maggiore capitalizzazione, solo Italcementi. Però STMicroelectronics si era comportata bene. Qui c'è Intel che ha, se ho ben visto, ha alzato le stime sul terzo trimestre. Sì, ha rialzato le stime sui ricavi del terzo trimestre, peraltro in un momento in cui il settore tecnologico è tornato un po' sotto i riflettori, vuoi per le forti vendite dell'iPhone 7 da parte di Apple e da altri risultati del settore tecnologico. Comunque il gruppo Intel si aspetta ora un risultato di 15,6 miliardi di dollari, quindi con rispetto al target precedente di 14,9 miliardi di ricavi nel terzo trimestre, ecco che un po' i titoli legati a questo comparto hanno tenuto, come hanno tenuto anche Poste e Mediaset per ragioni diverse. Mediaset ha perso l'1%, ieri è stata fissata la prima udienza, addirittura il 21 marzo, della azione legale nei confronti con Vivendi, un'udienza così lontana. Peraltro anche questo per motivi tecnici fa però sperare il mercato che non si aspetti fino a quel momento per trovare un accordo o per litigare in sede legale, ma quindi che si trovi un accordo precedentemente. Allora, sì, devo chiudere, Andrea, veloce. Ha tenuto anche Poste Italiane, ieri ha annunciato questo ingresso in SIA, società delle piattaforme di pagamento per Poste, novità in attesa per la prossima settimana, le offerte per l'asset management di Unicredit, cioè Pioneer. Pioneer, certo. Su Fiat Chrysler meno 2% pesa il fatto di dover richiamare 1.900.000 veicoli in tutto il mondo per il malfunzionamento dell'airbag. Andiamo sui migliori e peggiori in assoluto, molto rapidamente. Casta Diva Group più 13%, Industria e Innovazione più 7,20%, e poi Banca Desio Brianza più 4%, fronte opposto, e Zignago Vetro più 2,80%, fronte opposto Visibilia più meno 11,70%, Esprinet meno 11,30%, Meridian meno 10,70%, Monte dei Paschi appunto quarto peggior titolo. Grazie Andrea Fontana, grazie Mauro Del Conno, Barbara Bianchi anche questa settimana per l'assistenza in redazione e in regia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.